24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno, eccoci, 7:20 minuti, siamo in diretta, cari ascoltatori, con 24 mattino, siamo anche su Facebook, il nostro sito 24 mattino, e su Twitter, @24mattino, eccoci là. Oggi parleremo di Calciopoli, avremo ospite l'ex PM del caso Calciopoli a Napoli, quello che ha portato alle condanne, la cupola di Moggi. Il PM Narducci oggi fa l'assessore a Napoli alla sicurezza, è uscito con un libro, Calciopoli, la vera storia, esce oggi e ci racconterà insomma questa vicenda. Avremo ospite anche tra un'ora esatta alle 8:20 il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, l'abbiamo richiamato perché da mesi, nonostante una sentenza da Corte Costituzionale, tiene due poltrone, quella di sindaco e quella di deputato siciliano, il che è incompatibile. Mollerà? Non mollerà? Adesso l'hanno dichiarato decaduto dall'assemblea regionale a 10 giorni per sloggiare, ma pare voglia ancora resistere, non lo so, ci spiegherà tutto alle 8:20. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo giovedì 14 giugno i titoli intanto, tensione sui bot, tassi al 3,97%, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Mentre vediamo le altre aperture, Corriere della Sera, piano di Monti per le cessioni, Repubblica, beni pubblici in vendita, così La Stampa, beni pubblici sia la vendita, Il Messaggero, Monti pronti a cedere beni pubblici, Il Giornale, l'Europa ci minaccia, Il Fatto Quotidiano, l'ultima beffa, condannati ineleggibili ma dal 2018, mentre l'Unità la mette così, condannati via dalle Camere. Libero, oddio, torna Prodi, dalla padella alla brace, una clamorosa anticipazione di Libero, uno scenario politico, mentre Avvenire apre sull'azzardo, è una campagna che segue da tempo il quotidiano dei Vescovi, meno azzardo per tutti, sanzioni più severe, stretta sugli spot, ludopatia, malattia riconosciuta, questo è stato riconosciuto in un testo unico dal Senato. Ieri è stata una giornata convulsa alla Camera, perché ci sono state 3 votazioni, il decreto anticorruzione, poi vedremo le polemiche e che cosa prevede. Ma io voglio partire da alcune segnalazioni proprio dalla giornata di ieri. La prima la trovate su Libero, è una vicenda brutta messa così, ma alla quale il governo ha promesso di mettere rimedio. Pagina 9 di Libero, udite udite il titolo, la casta ship. 91 milioni ai terremotati. Allora, la vicenda nasce da una denuncia dei radicali. Ricordate il fatto che i partiti hanno detto ci taglieremo la metà della tranche del finanziamento pubblico ai partiti che arriverà a luglio, 180 milioni, e metà la daremo ai terremotati. Un bel gesto, un gesto doveroso. Ebbene, i partiti avevano promesso di dare all'Emilia metà dei rimborsi di luglio, ma un cavillo temporale ha bloccato tutto. I cavilli, ve lo dico sempre, stanno nei cavilli, nelle norme, nelle interpretazioni, nelle postille, i problemi dell'Italia. Eccolo qui allora. La denuncia dei radicali, ieri, hanno svelato questa magagna. Il primo articolo di questo provvedimento, che dovrebbe appunto disporre metà della tranche ai terremotati, ha l'effetto di invalidare l'ultimo articolo che dava al governo 15 giorni di tempo per accertare i risparmi e destinarli ai terremotati. Il problema è che il versamento ai partiti della rata dei rimborsi è in agenda il 1 luglio, con il risultato che la rata arriva prima che la legge in questione entri in vigore, pertanto finisce interamente in tasca ai partiti. I radicali dicono se ciò sia accaduto per svista, dolo o colpa non importa, bisogna evitare questo scippo. Viene chiesto al governo un decreto legge d'urgenza e alla fine il governo si dimostra reattivo col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Malaschini, che assicura la piena disponibilità a risolvere il problema da parte dell'esecutivo. Già nel prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare un decreto governativo per superare la questione e risolverla. Staremo a vedere, ma come detto, vabbè, questa è la denuncia su Libero. La casta scippa 91 milioni ai terremotati, metteranno rimedio, porranno rimedio a questa situazione, altrimenti davvero non so, immaginatevi voi italiani cosa ne pensereste davvero se non riuscissero a mettere rimedio a questa che può essere stata anche una svista, un cavillo temporale. Ho colto altre due cose dai giornali riguardo alla giornata di ieri della Camera. La proposta di un deputato di Popolo e Territorio ed ex di PD, ex di API, che ha depositato un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta su episodi di corruzione politica per accertare eventuali illeciti arricchimenti, gli sperperi, le connessioni tra politica e criminalità organizzata. Chi ha proposto questo? L'onorevole Massimo Calearo. Ma allora non si è dimesso? Che aveva detto che si dimetteva, ma poi ha detto non mi dimetto più. Ricordate, no, le polemiche nate anche da una dichiarazione qui alla Zanzara di Cruciani: non vado in Parlamento, mi dimetto. Non si è dimesso più. Mi ha colpito anche le foto, le troverete alla Camera, dell'onorevole della Lega Lussana, Carolina Lussana, che a un certo punto è stata immortalata dai fotografi. Ha preso una foto di Mussolini, del Duce, a braccio teso, proprio col saluto fascista, e si è avvicinata alla nipote del Duce, Alessandra Mussolini, per farle fare un autografo. Poi ha messo la foto autografata in busta e se n'è andata via. Ovviamente la scena la trovate su tutti i giornali, immortalata, e l'onorevole Mussolini ha detto: beh, che male c'è, io sono la nipote. E infatti il problema non è tanto l'onorevole Mussolini, che è nipote del Duce. Il problema è perché l'onorevole Carolina Lussana si è fatta autografare una foto del Duce con il braccio teso. Ovviamente è stata subito accusata di avere simpatie fasciste, ma lei si è difesa così, sentite, sul Messaggero, lo trovate a pagina 9: non mi sento colpevole, volevo solo fare un piacere a un ragazzo, si chiama Nemesio, mi ha chiesto il favore di far firmare le foto da Alessandra, che se sta qui è proprio grazie a Mussolini, il quale bene o male fa parte della storia di questo paese. L'onorevole Lussana si dice amareggiata, sarebbe il caso che qui alla Camera ci si occupasse di cose più serie, erano mesi che mi portavo dietro quelle foto, ho voluto solo fare un favore a un amico, certo non mi si può accusare di simpatie fasciste. Ma qui sul finale arriva la cosa più straordinaria, a un certo punto la Carolina Lussana ha un ripensamento evidentemente, dice: però a pensarci bene il gesto di quel ragazzo mi preoccupa. Perché se il suo eroe è Mussolini, allora vuol dire che questa politica, la nostra politica, non è stata capace di dargli nulla. Ecco, alla fine questo gesto mi ha fatto riflettere. Cioè, finalmente è arrivata a pensare che questo Nemesio, che gli ha chiesto la foto autografata del Duce da parte di Alessandra Mussolini, ma effettivamente adesso che ci penso, il suo eroe è Mussolini. C'è qualcosa che non va in queste nuove generazioni. Questa la spiegazione dell'onorevole Lussana. Noi ci fermiamo per 5 minuti. Alle 7:34 minuti, allora, il premier Mario Monti, che ieri ha fatto un viaggio lampo in Germania, visto il ministro delle finanze tedesco Schäuble, è di fronte alla situazione difficile del nostro paese, una situazione difficile, anche se ieri Monti ha ribadito non serviranno manovre correttive, non serviranno altre manovre, ma nei retroscena della politica, quando c'è stato questo vertice con ABC, Alfano, Bersani e Casini, convocati in tutta fretta, rinverdendo anche questi vertici che erano stati aboliti di fatto, e nel retroscena della politica pare che Monti abbia usato e stia usando parole molto molto angosciose, angosciate sulla situazione italiana. Per esempio Giovanni Palombo sul Secolo XIX a pagina 3 racconta che Mario Monti ha detto questo ai partiti, o dei partiti, a un collega ministro: siamo sul baratro, non so se i partiti lo hanno capito. Le imprese italiane stanno scappando dall'Italia. Questo è invece quello che si è lasciato andare il numero uno dell'esecutivo di Bruxelles al presidente del Consiglio. E insomma, parole difficili, parole dure, ma anche la stampa racconta di come Mario Monti abbia detto proprio ai partiti in maniera chiara: dobbiamo stare uniti, perché qua l'unica alternativa è finire nel baratro. Non si sa se Mario Monti voglia lanciare questi messaggi per ottenere un maggiore consenso politico o se davvero, quindi sarebbe da dire stia giocando un po' con le parole, ma questo è esagerato, o se davvero la situazione è così drammatica come viene profilata negli incontri almeno privati. Ieri però Mario Monti invece ha incassato gli elogi di Schäuble, appunto, come racconta Gerardo Pelosi, inviato a Berlino a pagina 5 del Sole 24 Ore. Certo, pesano anche un po' le parole del ministro delle Finanze, ieri intervistato sulla stampa, ricordate, ha detto Schäuble, bisogna fare come, citando Goethe, no? Chiamava molto l'Italia, è bene che ognuno spazzi davanti alla propria porta perché tutto il quartiere sia più pulito, come dire, ognuno faccia i propri compiti, i compiti a casa che tornano. E Mario Monti da Berlino ha lanciato questa nuova idea che è un po' fornisce il pretesto per dare l'apertura a tutti i giornali, l'idea di vendere asset pubblici da parte dello Stato, vendita di immobili, partecipazioni di comuni e regioni, e questo è il piano di cessione del Premier Monti per evitare una nuova manovra economica. Il titolo infatti a pagina 5 del Sole è proprio questo, presto in vendita asset pubblici. Tra l'altro Mario Sensini sul Corriere della Sera, pagina 2 e 3, racconta come verrà messa in atto questo piano per gli immobili. I protagonisti dell'operazione saranno i comuni dai quali è partita l'iniziativa e poi le province, le regioni, la Cassa Depositi e Prestiti, che rimetterà in campo anche il Fondo Strategico Italiano, l'Agenzia del Demanio. L'obiettivo è quello di valorizzare i beni, cederli, fare cassa, ma anche quello di dare attuazione concreta al federalismo demaniale che ha devoluto una serie di beni agli enti locali che tuttavia hanno poche risorse per investirci, valorizzarli e eventualmente dismetterli. Dunque l'idea è quello, valorizzare gli asset e poi cederli per fare cassa. Questo per evitare una manovra. Nel frattempo iniziano i tagli della cosiddetta revisione della spesa, la spending review. Via Italia, allora, che cosa ha fatto come prima mossa il super commissario Bondi? Una mossa non tanto strategica dal punto di vista dei costi, ma anche come messaggio: rivediamo le scorte soprattutto ai politici. Le scorte. Troppe auto blu, troppe auto di servizio e dunque l'intero parco auto delle amministrazioni pubbliche si è ridotto già nei primi 5 mesi di 1.117 vetture, con un maggiore calo delle amministrazioni centrali, il 15,9% rispetto alle locali, il 4%, sto leggendo dall'articolo di Antonella Baccaro a pagina 3 del Corriere della Sera. Ma Monti, tramite Bondi, il supercommissario, vuole partire da qui. Scorte e auto blu, situazioni da rimuovere. Io ho lanciato su Twitter, sul mio profilo, Talino Milan, questa idea, insomma, che stiano facendo delle manovre anche i tecnici, non dico per farsi cacciare, o forse per farsi cacciare, qualcosa di impopolare anche per la politica. Come prima cosa, come primo messaggio, rivediamo le scorte ai politici e ai furbetti. E infatti anche pagina 4 di Repubblica, l'elenco dei tagli: scorte ai furbi, consulenze d'oro, sanità, nel decreto Bondi risparmi per 5 miliardi. Oltre alle scorte c'è anche gli acquisti, si centralizzerà tutto con la Consip, come anticipato già da qualche giorno il Sole 24 Ore. Gli statali, il buono pasto, attenzione cari dipendenti pubblici, una norma che passerà molto probabilmente, la riduzione dei buoni pasto degli statali, che saranno ricondotti a un importo unico per tutte le amministrazioni. Bisognerà vedere quale importo unico. Quindi questa è un'altra idea. Come un'idea che si è profilata ieri, per la verità, con il solito andazzo di questi giorni, cioè con una confusione, non si capisce bene, sì, no, boh, forse, bah, vediamo, stiamo studiando, è quella di aumentare i ticket sanitari. Non ha aiutato certo ieri il ministro della Salute Balduzzi, che ha fatto delle dichiarazioni, prima negato, poi ammesso, però saranno misure eque, insomma, ticket sanitari, così titola il Quotidiano Nazionale, aria di stangata. Fino a 200 euro per i ricoveri. E questa l'idea, la stangata sui ticket? No, anzi sì, Ma è colpa di Tremonti. È clamoroso il balletto del quale si è reso protagonista il ministro della salute Balduzzi, che prima nega si tratta di ipotesi destituite di ogni fondamento, poi ammette che si sta lavorando a strumenti e misure in materia di ticket per modificare quanto previsto dal governo Berlusconi. In mattinata una riunione con i tecnici al ministero. Si prospettano due ipotesi di lavoro per rimodulare i ticket. La prima ipotesi è una franchigia sulla base del reddito dal 7 al 9 per mille. Questa è la strada preferita dal ministro Balduzzi. Ma sul tavolo c'è un'altra opzione, una rimodulazione per 6 scaglioni di reddito sotto i 6.000, sotto i 12.000, i 18.000, sotto i 30.000, sotto i 40.000 e oltre i 40.000. Prima fascia del tutto esente dai ticket. Dai 12.000 euro in su si inizierebbe invece a pagare 1-2 euro sui farmaci, dai 10 ai 180 euro per i ricoveri in day hospital e dai 10 ai 200 euro per i ricoveri ordinari, ovviamente in base alla fascia di reddito. Anche Avvenire è polemica, insomma, se non altro su questo balletto. Guardate il titolo a pagina 13. Aumenta il ticket. Sì, no, forse. Il ministro Balduzzi, la riforma ci sarà, ma sarà equa. Insomma, un balletto anche sulla questione dei ticket sanitari. La situazione, appunto, è un po' confusa all'orizzonte, per usare un eufemismo. Talmente confusa che Maurizio Belpietro, oggi Libero, lo cito perché fa uno scenario con un editoriale. Francamente non so da dove trovi questa notizia, ma oddio, torna Prodi, questo è il titolo di apertura. Secondo lo scenario politico di Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, tre sono le possibilità: o si riparte con un reincarico a Monti, o torna Prodi, che non aspetta altro, dividendosi tra una conferenza e una consulenza, di essere richiamato come salvatore della patria, oppure l'ultima delle idee bislacche è affidarsi al dottor Sottile, Giuliano Amato. Questo nell'ipotesi, dice Belpietro, che Monti non ce la faccia, e un'ipotesi secondo Libero concreta. Sta di fatto che ieri la Camera, tra gli autografi del Duce, le proposte di chi si doveva dimettere e poi non si è dimesso, che citavo prima, ha votato in realtà il decreto legge anticorruzione. Tre fiducie, una maratona di seduta di diverse ore. Ci saranno però delle modifiche al Senato. Se volete tutti i dettagli li trovate sul provvedimento, il Sole 24 Ore, per esempio, a pagina 21. I due elementi che hanno fatto più discutere sono l'incandidabilità delle persone condannate in via definitiva, che è stata votata, però è stata votata e entrerà in vigore dal 2018, questo almeno in prima lettura, tanto che il Fatto Quotidiano titola in prima pagina così: l'ultima beffa, condannati ineleggibili, ma dal 2018. Però in realtà, visto che ci saranno modifiche al Senato, l'orientamento del governo e di molti è di dire no, cercheremo di anticipare l'incandidabilità entro il 2013, in modo che entri in vigore dalla prossima tornata elettorale. Quindi il ministro Severino, ministro della giustizia, ha garantito: accelereremo sulle norme per i condannati. Tanto al Senato ci saranno presumibilmente delle modifiche. L'altro elemento che ha fatto discutere, fa ancora discutere sui giornali, sulla questione del decreto anticorruzione, è quel mantra che da giorni, e che anche oggi, viene diffuso dai giornali, alcuni giornali, per esempio Repubblica ancora: la corruzione, ecco i processi che saltano se passa così la riforma, perché si accorciano i tempi di prescrizione. Il processo a Penati, il processo a Berlusconi, il processo Rubi, no? Il processo Tarantini, il processo a Papa, all'onorevole Papa. In realtà, per esempio, se uno legge il Corriere della Sera, il sempre ottimo e ben informato Luigi Ferrarella, a pagina 12, legge questo titolo: quella norma non salva né Penati né Berlusconi. E allora, di che si tratta? Dove sta la verità? Dopo le informazioni sul traffico cercheremo di scoprirlo. E allora, ci sono alcuni articoli contestati del DDL anticorruzione, ma scrive Luigi Ferrarella del Corriere: quella norma non salva né Penati né Berlusconi. Non salva Penati dall'inchiesta di Monza sulle tangenti rosse, non salva Berlusconi dal processo Ruby. Se si parla poco delle sensibili lacune e reali incongruenze della nuova legge, è paradossalmente perché da destra su Penati e da sinistra su Berlusconi si continuano a sbandierare due inesistenti al lupo al lupo. Non è vero che la legge contenga una norma destinata a mandare al macero il processo che la Procura di Monza è orientata a chiedere per l'ex capo della segreteria politica di Bersani, per il semplice fatto che la legge non inciderà sulla prescrizione delle due imputazioni di corruzione e delle due ipotesi di violazione della legge sul finanziamento dei partiti datate 2008-2009 e 2008-2010, che continueranno a prescriversi dopo 7 anni e mezzo. Poi ci sono 3 accuse di concussione e la nuova legge vuole scindere l'articolo 317 in due fattispecie. Il nuovo articolo 317, che con pena da 6 a 12 anni punirà il pubblico ufficiale che costringe il privato, e un altro articolo che punirà sia il pubblico ufficiale che induce il privato, sia il privato indotto a dare o promettere. Insomma, norme anche tecniche. Luigi Ferrarella si addentra anche nella lettura tecnica, come giusto che sia, del provvedimento, però per dire, per questi motivi non verrà salvato Penati e non salterà neppure il processo Ruby, dove Silvio Berlusconi, oltre che di prostituzione minorile, è imputato di concussione per induzione dei funzionari della Questura di Milano. I timori che non vi sia continuità normativa tra il vecchio articolo 317 e il nuovo 319 quater sembrano dimenticare che per la posizione di pubblico ufficiale Berlusconi tutte le ipotesi ricomprese nel vecchio articolo 317 andrebbero a finire o nel nuovo 317 o nel 319 quater. Insomma, anche qui spiegazioni tecniche, ma il succo è questo. Scrive Ferrarella, questa norma, nonostante si gridino questi al lupo da giorni, non salverebbe, accorciando le prescrizioni, né Penati né Berlusconi nei loro rispettivi procedimenti giudiziari. Chi è in difficoltà invece un po' tanto anche è il ministro Fornero. Ieri c'è stata una mozione di sfiducia da parte di Lega Italia dei Valori. Tutti vogliono utilizzare questo termine, esodiamola, no? La polemica sugli esodati. Quanti sono gli esodati? Tra l'altro potete continuare a mandare i vostri quiz, la vostra cifra al Ministero del Welfare per cercare di aiutare. Permettetemi un po' di ironia, no? Si può fare dell'ironia anche se il problema è grave, è serio. Ci sono alcuni retroscena, come sul Corriere della Sera, al giorno in cui il ministro si ritrovò isolato, Lorenzo Salvia racconta di una Fornero che sta subendo anche un po' di un momento molto difficile. Anche all'interno dello stesso Consiglio dei Ministri, per esempio, c'è questa dichiarazione del ministro all'istruzione Profumo, che ammette come lei abbia spesso visioni in contrapposizione, bisogna dirlo. O guardate il titolo di pagina 6 del Fatto Quotidiano, arrogante e incapace, tutti contro Fornero. O guardate invece il titolo di prima pagina di un editoriale di Pietro Spataro sull'Unità, il professore ha un problema, Elsa Fornero. Insomma, viene additata adesso come uno dei problemi del governo, perché è giudicata arrogante. Anche La Stampa, pagina 6, Fornero nel mirino, è arrogante. Ieri tra l'altro era in trasferta a Ginevra per motivi istituzionali e a questa richiesta anche di mozione di sfiducia ha replicato così il ministro Elsa Fornero: sono all'estero, parliamo solo di temi internazionali. Però certo c'è da dire che non se la passa benissimo in questo momento su questo tema degli esodati. Per concludere con la politica, ricordate ieri che Beppe Grillo disse: Di Pietro venne a casa mia, trovò un DVD del CEPU, di una sua lezione di procedura penale al CEPU che avevo solo io e che fece, se lo mise in tasca, se lo portò via. Oggi il Corriere della Sera va a chiedere a Di Pietro, a pagina 17 di questo episodio, Di Pietro dice: sì, è vero, lo sanno tutti che io con l'italiano ho un rapporto difficile. Che verrebbe da dire, ma dai, anche qui non ce ne siamo accorti. La lezione mi serviva a migliorarmi, a rivedermi, non per narcisismo, ma per capire dove sbaglio. Ma questa è la spiegazione di Antonio Di Pietro, che dice: certo, fossimo davanti a un interrogatorio, dico, ammetto, sono andato a casa di Grillo e ho preso questo DVD, l'ho visto questo DVD e me lo sono portato via, volevo migliorare. presi un DVD a grillo per capire i miei errori. Così, intervistato da Marco Cremonesi, Di Pietro conferma. Oh, cari italiani, avete sentito, anche a Bruxelles dicono le imprese lasciano l'Italia. Questo è un problema serio. E tra le imprese che lasciano l'Italia, rassegnatevi, quest'estate niente luccichi, niente festeggiamenti, quest'estate estate sobria. Il Billionaire chiude, è l'ultima stagione per la verità del Billionaire di Flavio Briatore. Briatore lascia l'Italia, non si può lavorare. C'è Diego Rovelli disperato, dall'altra parte del vetro dice come passerò l'estate. Può essere anche un problema. In ogni caso si sfoga col giornale, Gabriele Villa ne raccoglie a pagina 5 lo sfogo. Sono un imprenditore, seguo il mercato ci allontana dall'Italia, qui se hai uno yacht devi essere per forza un evasore fiscale, Monti ha innescato una sorta di odio sociale. Se arrivi con uno yacht in un porto ti guardano e ti assaltano come un bandito, un ladro. Briatore, questo è l'ultimo anno del mio Billionaire anche sulla stampa, oppure a pagina 16, Porto Cervo addio, il Billionaire espatria. È durissimo. Francesco Merlo nel suo commento su Repubblica: addio pacchianeria nazionale, un altro segnale insieme a un naufragio familistico criminale della Lega, al ripristino della fermata dell'autobus davanti a Palazzo Grazioli, alle derive personali e professionali di maschere come Fede, Mora, Corona, Marcello Dell'Utri. Chiude il Billionaire, non c'è più spazio per i falsi capi di Stato, le soubrette ministre, i falsi giornalisti, le patacche storiografiche dei falsi intellettuali. Ce ne ricorderemo di questa antropologia che ha dominato il paese negli ultimi 20 anni e che esce di scena insieme all'idea che il farabutto è una risorsa. E speriamo che anche i nostri colleghi cortigiani, quelli che fecero un genere dell'elogio del mascalzone furbo, capiscano quanto era povera e servile quella loro tesi compiaciuta sulla magnifica stoffa del figlio di puttana. Nacquero quelli del Billionaire come riproposta farsesca dell'atmosfera della dolce vita e del sorpasso, ma senza la dimensione romantica dell'Italia del boom, né tantomeno l'ironia intelligente di Fellini e di Norisi. Ovviamente lo so, scrive Merlo, che la volgarità non si esaurisce con Briatore, che le sue vie sono infinite, però Briatore e le sue macchine, Briatore e i suoi trucchi esibiti, Briatore e la sua socia Santanchè, Briatore e il rullio dello yacht che addormenta il bambino, Briatore e i buffi spocchiosi ricastri di Porto Cervo, Briatore e l'Italia sardo estiva alle ostriche, lo champagne ai 43 metri di barca. Oggi intanto finisce Briatore e speriamo che da domani a Valanga scoppieranno tutte le altre rane che volevano fare i buoi. Così Francesco Merlo su Repubblica e andiamo al giornale radio. Mattino. Eccoci alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo qua e voglio salutare un ritorno, l'avevamo già chiamato qualche tempo fa, eccoci ancora con lui, il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Nonché deputato regionale dell'Assemblea regionale siciliana. Allora, qua, caro sindaco, c'è da chiarire che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che da mesi dice che queste due cariche sono incompatibili, ma lei ha resistito finora e resiste. Come mai? Perché non sono il solo. Guardi quanti senatori e quanti deputati ci sono nel Parlamento nazionale che hanno ritenuto di doversi difendere legittimamente da una sentenza che è intervenuta dopo l'elezione. Io, per carità, rispetto sia la sentenza della Corte Costituzionale, perché mi sembra doveroso, sia la decisione dell'Assemblea regionale siciliana, che tuttavia non ha rispettato le regole almeno sul piano... Che diciamolo, l'ha dichiarata l'Assemblea regionale siciliana, vista questa sua resistenza, l'ha dichiarata decaduta 2 giorni fa, cioè lei è... Guardi, decaduto. Lei non è ben informato. Non sono ben informato. Sì, adesso glielo spiego. L'Assemblea regionale ha posto il tema della incompatibilità e mi ha dato 10 giorni, termine entro il quale certamente deciderò nel rispetto della legge. Beh, ma entro 10 giorni, però io ho letto, se lei non decide, lei è decaduto, ecco. Non dovrei decidere, scusi. E no, questo per dire, l'ha dichiarata decaduta entro 10 giorni, mettiamola così, insomma. No, le ha dato i 10 giorni, ecco. Guardi, seriamente, ragioniamo seriamente, non si può declarare una decadenza per il futuro. La decadenza ha effetto immediato, per cui nel momento in cui io non dovessi decidere, l'Assemblea si certamente Ope Legis dovrà proclamare la mia decadenza. Ma questo non accadrà, perché nel momento in cui ciò dovesse accadere, io certamente deciderò di scegliere, e anticipo che sceglierò di restare sindaco. Quindi lei entro 8 giorni a questo punto... A meno che non intervenga una sentenza diversa da parte del CGA, perché io ritengo... Chi è il CGA? Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che sarebbe il Consiglio di Stato siciliano. Cioè lei ha fatto ricorso... Certo. Cioè vede che vuole... Ma perché vuole resistere sindaco e deputato regionale? Perché lo ritengo giusto. Lei mi vuole togliere il diritto di difendermi davanti agli organi... difendersi no, ma lei sta contestando una decisione della Corte Costituzionale, che è il massimo organo, no? Guardi, il Senato per esempio ha deciso che Nespoli, l'onorevole senatore Renzo Nespoli, può restare in carica, e la condizione è uguale. Per cui, guardi, la giurisprudenza qui è molto contrastante, ed è una operazione che riguarda l'intero impianto della validità di una sentenza della Consulta, che può valere o dal momento in cui viene pronunciato o anche per il passato. Questo è il dato. E allora io penso che sia una battaglia di principio. D'altronde, veda, non è che io sto occupando abusivamente uno scranno, perché sono stato legittimamente eletto dai miei concittadini. Allora penso che possa essere una battaglia di principio che valga per... Ho capito, ma lei è stato legittimamente eletto, ma poi è intervenuta questa sentenza della Corte Costituzionale. Lei non mi ascolta, allora. No, ma lei sta facendo tutti i ricorsi legittimi, eccetera. Però io le vorrei chiedere questo. Usciamo un attimo dalla questione dei ricorsi e controricorsi, ma che messaggio pensa di dare lei? Cioè, i cittadini vedono una persona che sta facendo tutti i legittimi ricorsi per tenersi due poltrone, questo è il dato di fatto. Non sono due poltrone, sono due elezioni. Beh sì, due, vabbè, la metta. E perché le chiama poltrone le elezioni? Vabbè, ma due cariche, non è un insulto dire due poltrone, due incarichi istituzionali. Due incarichi legittimamente e va bene. Volontà popolare. Ho capito, ma perché ne vuole due? Cioè, perché ne ha avuti due? Allora, se ci fosse la possibilità di averne tre, anche tre o quattro, poi capisce, è materia per la casta questa, per l'anticasta. No, sa qual è la casta? La casta è quella che, per esempio, non conosce il meccanismo di andata e ritorno. Sa chi è la casta? Chi non si sottopone al giudizio degli elettori. Quella è casta. Quando parlo di noi, parlo dell'intera classe politica. Non può essere una casta, perché a meno che lei non si riferisce a fatti diversi, per esempio alla mancanza di preferenze, quella io la condivido perfettamente e ritengo che sia giusto introdurre le preferenze. Io sono stato eletto con la preferenza, cioè la gente andando in cabina ha scritto Buzzanca, quindi io nel momento in cui finisco il mio mandato e decido di ricandidarmi, non sono più in condizione di dire mi chiudo a riccio. Sì, però il messaggio è questo. Allora, l'ARS, cioè l'Assemblea regionale, ha detto lei ha 10 giorni per decidere se no per noi è decaduto. Lei fa ricorso al Consiglio, appunto, il Consiglio di Stato siciliano. Capisce che sembra una battaglia che, vista dal normale cittadino, sembra un volersi accanire a mantenere una posizione di potere. Lei lo ha già deciso, lei pensa che sia in questo modo. Io credo che invece sia una legittima battaglia di principio. Una legittima battaglia. Ciascuno ha le proprie idee. E chiaramente saranno i cittadini tra qualche mese, quando andremo a votare, se io decido di ricandidarmi, di dire ha fatto bene o ha fatto male. Questo è il principio della democrazia, ed è il bello della democrazia. Il resto poi sono delle considerazioni, idee opinabili, certo. E rispettabilissime. Un dato di fatto, che non è un'idea, questo è un dato di fatto da chiarire: lei prende un solo stipendio, questo chiariamolo. Su questo accusano di prendere due stipendi, invece i due incarichi danno come uno stipendio. La ringrazio molto, perché lei dimostra molta onestà intellettuale. Io non l'ho detto, ma lo dice lei, io prendo un solo stipendio. No, questo sì, va detto per principio, però io con questo non la difendo. Lei fa una battaglia battaglia di principio. Per me, vista da fuori, da cittadino, sembra un volere in qualche modo mantenere una posizione legittimamente conquistata alle urne, per carità, nessuno ti sta dicendo. Adesso io le do un motivo di principio, un motivo politico, perché in questo momento la battaglia viene fatta in maniera persecutoria contro di me, perché il primo degli eletti è che è stato poi eletto all'interno del PDL, adesso da Volta Cabana qual è? Ha fatto altre scelte. È del Movimento per le Autonomie di Lombardo, cioè le subentrerebbe uno del Movimento per le Autonomie. Esatto. E siccome lei ce l'ha con Lombardo, questo lo no, so. No, io non ce l'ho con Lombardo, io sono a favore dei siciliani, è una cosa diversa. Allora io dico, dovrebbe, questa sì che è una questione morale. dovrebbe introdursi la norma attraverso la quale chi viene eletto in una formazione politica e poi la lascia non può occupare quello scranno. Allora sarebbe un'altra storia. E io non farei una battaglia di principio, ma questo elemento è a tutela di coloro i quali hanno votato una formazione politica e poi si vedono rappresentati da un uomo che ha cambiato completamente la formazione politica. Questa è una questione che lei vuole porre. Staremo a vedere tra 8 giorni. Sindaco, io le devo fare quest'ultima domanda. Sa che è passata l'incandidabilità per i condannati in via definitiva? A me risulta che lei abbia una condanna in via definitiva a 6 mesi, credo, per peculato, che l'ha fatta anche decadere in passato da sindaco. Sì, sono stato riabilitato dal Tribunale di Messina nel 2004. Riabilitato che vuol dire? Cioè la condanna era perché aveva usato l'auto blu per andare a fare il viaggio di nozze. E dopodiché il Tribunale di Messina ha stabilito che il signor Giuseppe Buzzanca è stato riabilitato e quindi quella pena è stata estinta. Ma andò, è vero che andò, usò l'auto blu per fare un pezzo del tragitto del viaggio di nozze? Guardi, la storia ci porterebbe lontano, non è assolutamente vero, ma non credo che sia questo il momento per parlarne. Potremmo stabilire una puntata, ma attraverso i legali, perché purtroppo io e lei parleremo di fatti, ma bisognerebbe guardare alle carte e farlo in un tribunale. Non siamo in un tribunale. Tant'è che poi il tribunale ha deciso che si doveva procedere alla mia riabilitazione. Va bene, io sindaco e deputato la ringrazio, vedremo tra 8 giorni se non interviene il Consiglio di Stato, lei deciderà, e se non interviene ha deciso rimarrà sindaco e lascerà l'Assemblea regionale. Grazie a lei, a Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina e deputato regionale siciliano del Popolo della Libertà. Diciamolo, ribadiamo, prende uno stipendio. Quindi non mettiamola sulla questione demagogica del ruba soldi, no, prende uno stipendio. Però, certo, per me sono dovrebbe lasciare una poltrona, ma lui invece fa questa battaglia di principio, dice. Tra poco parleremo di Calciopoli. È uscito un libro ieri, firmato dal PM di Napoli, Narducci, ex PM, che curò tutta l'inchiesta su Calciopoli, Moggi. Ricordate la cupola, i 30 scudetti alla Juventus? Si intitola Calciopoli, la vera storia. Parla con noi, oggi fa l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, ma parlerà in veste di ex magistrato di quell'inchiesta. Calciopoli, 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Esce in questi giorni, è uscito credo proprio ieri, un libro che si intitola Calciopoli, la vera storia. Sono 270 pagine, 15 euro, edizioni Alegre. L'autore oggi è assessore al Comune di Napoli, ma è stato il magistrato che ha curato tutta la vicenda, l'inchiesta di Calciopoli, quella che della vicenda Moggi, gli scudetti tolti alla Juventus, la retrocessione in Serie B, le penalizzazioni al Milan, ad altre squadre, eccetera. Insomma, la più grande inchiesta moderna contro il marcio nel calcio. Si tratta di Giuseppe Narducci, che saluto. Buongiorno, dottor Buongiorno. Narducci. Eccoci qua e grazie di aver accettato il nostro invito. Parleremo di Calciopoli, la vera storia di questa inchiesta. Proprio nei giorni in cui, tra l'altro, un'altra inchiesta lo sappiamo, sulle pagine di tutti i giornali, la vicenda di Cremona. Saluto anche il nostro Carlo Genta, voce dello sport di Radio 24, una delle voci. Carlo, buongiorno, ci aiuterai in questa intervista. Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, dottor Narducci, intanto questo libro, Calciopoli, la vera storia, mi ha colpito molto intanto la dedica iniziale, dedicata a Carlo Petrini. Carlo Petrini è un giocatore, tra l'altro, scomparso quest'anno, uno che denunciò il marcio nel calcio dopo che si ritirò. Perché questa dedica, dottor Narducci? Ma per innanzitutto per la profonda amicizia che c'è stata tra me e Carlo, ma anche e soprattutto perché credo che tante cose che abbiamo visto accadere nel mondo del calcio, forse anche questa indagine, credo non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata anche quella forte denuncia che Carlo Petrini ha iniziato a fare nel 2000, quando ha pubblicato Nel fango del Dio Pallone, che è un po', credo, lo spartiacque nella storia moderna del calcio. Perché per la prima volta lì un ex calciatore raccontava di doping, si parlava di calcio degli anni 70, di doping, di illeciti sportivi, di partite combinate. Perché Carlo Petrini è stato un uomo e un calciatore scellerato, e da allora è conosciuto anche come il calciatore maledetto, che però ha avuto il coraggio nella sua vita di rompere il muro di omertà e di ipocrisia che avvolge sempre il mondo del calcio professionistico, e di denunciare tutto quello che era accaduto nell'ambito di una sua lunghissima carriera, fino a quell'epilogo che è stato la vicenda del calcio scommesse del 1980, di cui Carlo fu negativamente un protagonista. Senta, in questo libro lei ricostruisce tutta la vicenda dove in cui è stata coinvolta e colpita la Serie A, e la figura di Moggi, la cosiddetta triade, eccetera. Che effetto le ha fatto sentire che quest'anno, subito dopo la vittoria allo scudetto, la Juventus, uno scudetto meritatissimo, i dirigenti della Juventus abbiano detto sono 30 scudetti, tirando in ballo anche quei due che furono revocati a seguito della sua inchiesta? Credo che si tratti di una provocazione, ovviamente. Comprendo dal punto di vista dei dirigenti di una società che, come dire, in quell'anno fu colpita sul piano sportivo e fu colpita anche attraverso questa misura che riguardava l'assegnazione degli scudetti di quei due campionati. Ma credo resti una provocazione. Le decisioni all'epoca della giustizia sportiva furono decisioni giuste, e a distanza di anni credo che si confermino sempre più giuste. Una provocazione, le dice, beh, questo staremo a vederlo l'anno prossimo, non so. Carlo Genta, io vorrei intanto coinvolgerti, perché si parla di un'inchiesta del passato, sì. Ma anche oggi sui giornali in realtà ci sono stralci di questa inchiesta, perché ieri in un processo diverso ha parlato Tavaroli, processo Telecom, e ha detto di fatto io spiai Moggi per conto dell'Inter, su richiesta dell'Inter, sì. È così? Sì, è così, torna a farsi sentire Tavaroli. Io volevo però tornare con il dottor Narducci su un fatto. Lui parla di provocazioni riguardo a quegli scudetti, eccetera. Sono però provocazioni continue, e sono provocazioni pericolose, perché ancora oggi c'è un clima estremamente avvelenato che gli attori protagonisti del gioco, mi riferisco soprattutto ai dirigenti di Inter e Juventus, tanto per fare i nomi, che cavalcano continuamente questa battaglia. Quindi sono sì provocazioni, ma sono provocazioni molto lunghe, sono provocazioni incancrenite e sono provocazioni pericolose per tutti quelli che ci credono forse anche troppo. Anche perché cosa ne pensa di questo, dottor Narducci? Cioè, non è il caso forse di smussare un po' i toni, anche se nel mondo del calcio è un po' difficile? Non sono semplicemente polemiche da bar, sono polemiche che hanno riflessi importanti. Assolutamente, insomma. Sì, anch'io le giudico tale, quindi condivido quello che lei sta dicendo. Il tentativo ricorrente di rovesciare la verità dei fatti che emersa, e anche formalmente contrastare le decisioni della giustizia sportiva e degli organi federali, a cui ovviamente tutte le società professionistiche di calcio devono attenersi, anche quando ovviamente questi verdetti e questi provvedimenti, come dire, possono non essere convincenti, questo sì è una provocazione che giudico anch'io una provocazione pericolosa. Però le vorrei chiedere questo riguardo a quello che è successo ieri, le dichiarazioni di Tavaroli, cioè l'accusa che è stata fatta a questa inchiesta, che ha portato a delle condanne, è stata di essere un'inchiesta di parte, cioè si è voluto colpire, questo almeno diceva per esempio Moggi, si è voluto colpire alcune società e non altre, per esempio l'Inter, non glielo dice l'agnostico Carlo Genta, glielo dico io che tengo al Milan e lo posso dire. non si è voluto per esempio colpire l'Inter, ma si sono volute colpire altre società. Lei cosa risponde a questa accusa? Allora, io ricordo che nella indagine, poi nel processo, e da questo punto di vista ormai parlano due sentenze, di primo grado ma due sentenze, sono state valutate le posizioni di alcune società e non c'erano soltanto i dirigenti della società torinese, perché alla fine sono rimaste coinvolte anche altre società che addirittura, come nel caso del Milan, nel corso di quel campionato e di quel periodo storico era un diretto avversario e competitore della squadra di Torino, insieme alla Lazio e alla Fiorentina. In particolare le intercettazioni telefoniche e poi gli elementi di supporto e di riscontro di queste intercettazioni telefoniche sul piano della configurazione dei reati, degli illeciti penali, hanno permesso di individuare in capo a queste persone, sì, che rappresentavano queste società, alcune ipotesi di reato. In particolare quella che si è dimostrata l'ipotesi di reato più consistente, che ha riguardato non tutti, una parte, che è l'ipotesi di associazione per delinquere. Quindi di queste società, di altre no, ma non le fa effetto sentire Tavaroli che dice spiavo oggi per l'Inter, sono cose che esulano da, dalla sua inchiesta? Ma questa, non voglio dire, per quanto riguarda noi e per quanto riguarda me, non è storia nuova. L'ho ascoltata tante volte nel corso degli ultimi anni e questa vicenda è in piedi anche in indagini condotte dalla Procura di Milano da molto tempo. Io ovviamente non conosco cosa esattamente ci sia nelle vicende di cui parla Tavaroli e nelle quali Tavaroli è rimasto impigliato negli ultimi anni. Quello che posso dire è che quello che può essere accaduto a Milano e in altri luoghi, peraltro in un periodo storico antecedente all'inizio della nostra indagine, sì, e da questo punto di vista, come dire, non ho alcuna elemento per ritenere che questo sia avvenuto o per escluderlo, semplicemente non lo so. Non ha elementi. Non lo so, no, su questo no. Non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto storicamente nella nostra indagine. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico, poi faremo anche con Carlo Genta qualche domanda su... Certo, c'è un'altra inchiesta sulla quale l'ex PM Narducci non c'entra nulla, ma che ha riportato il mondo del calcio o il marcio presunto del mondo del calcio sulle prime pagine, e tra poco da qui ripartiremo. Allora, siamo con Giuseppe Narducci, che oggi è assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, ma è stato il PM che ha seguito l'inchiesta di Calciopoli, ha scritto anche ora un libro, Calciopoli, la vera storia. Carlo Genta, una domanda a Narducci. Sì, a parte il fatto che, tornando, facendo sempre un passo indietro con le dichiarazioni di Tavaroli, che Narducci non può giustamente commentare, però vale il discorso di prima, cioè questa è altra benzina spruzzata su quel fuoco, che non è semplicemente un fuoco goliardico, ma è un fuoco estremamente pericoloso che continuerà a bruciare per anni. Poi c'è questa nuova vicenda del calcio scommesse, ma io mi sono sempre domandato su queste due vicende profondamente diverse. La prima domanda che mi faccio e che faccio all'ex PM: ho la sensazione che in mezzo a tante verità o mezze verità ci sia sempre qualcosa di millantato. Questa è la mia sensazione, cioè che non sia tutto così chiaro, così limpido, ci sia molta millanteria, molta così leggerezza anche nel trattare certi argomenti. Io sono integralista da questo punto di vista e lo sono sempre stato, cioè secondo me, e lei da uomo di legge lo sa benissimo, se l'avvocato di parte parla con il giudice di fatti della causa, il processo è nullo, mi corregga se sbaglio. Quindi io da questo punto di vista, dal punto di vista di Calciopoli, sono sempre stato integralista, però trovo anche il pericolo della millanteria, sì, in tutte queste vicende. Narducci. Questo sì, esiste sempre, per carità, come dire, in ogni indagine, soprattutto in ogni dichiarazione che viene raccolta durante una fase di indagini, questo pericolo c'è sempre. Io non tenderei a non enfatizzarlo troppo, perché alla fine credo che quando si mettono insieme i pezzi che devono comporre il quadro di cui noi ci dobbiamo occupare, attraverso i pezzi e la loro composizione noi riusciamo a rintracciare il filo della verità. Quindi su questa, come è stata per Calciopoli, ma riguarda le indagini attuali o anche qualcuna del passato, le dichiarazioni, in particolare le dichiarazioni, vanno valutate sempre ovviamente con particolare prudenza e con particolare attenzione. Io penso che alla fine, come dire, si possa rintracciare il filo della verità. Quello che, per quanto riguarda Calciopoli, alla fine è stato l'indagine del 2006, il suo, credo, innegabile atto di forza è che tutta quella indagine in realtà non si è fondata su dichiarazioni di protagonisti del mondo del calcio. Ma su intercettazioni. Ma solo, pressoché solo sulle intercettazioni telefoniche e su altri elementi. D'altronde, come dire, tutti sanno, l'ho detto, l'ho ripetuto più volte, lo scrivo nel libro. Noi abbiamo, come dire, incontrato un mondo diffidente, ostile, chiuso. C'è tanta omertà nel calcio. Che ha offerto una scarsissima collaborazione, se non quasi nulla. È un elemento ovviamente che ci fa riflettere, perché io credo che sia ancora la caratteristica. No, ma infatti la caratteristica anche attuale. Per questo, dottor Narducci, le volevo fare qualche domanda sulla inchiesta attuale di Cremona, sulla quale ovviamente lei da lettore, immagino, da osservatore esterno, avrà qualcosa da dire. Per esempio, visto quello che è emerso all'ambito anche la nazionale, le faccio questa domanda diretta: lei avrebbe portato la nazionale agli europei o avrebbe portato alcuni giocatori, alcuni li avrebbe esclusi? Ma voglio dire, questo è accaduto. La nazionale agli europei ovviamente doveva andare, così come la nazionale italiana andò in Germania e vinse il mondiale nel luglio del 2006. Come in questo caso era opportuno, e almeno parzialmente mi sembra si sia realizzato, era opportuno ovviamente non portare nella selezione, nella competizione, persone rimaste coinvolte nella indagine. Per esempio, è stato portato Bonucci, che è indagato formalmente. È un fatto opportuno oppure no? Oppure si è parlato delle scommesse di Buffon, lei li avrebbe portati in nazionale? Ma io, siccome sono integralista al pari del mio interlocutore telefonico in questa conversazione, io non avrei portato questi calciatori nella competizione. Cioè Bonucci e Buffon lei non li avrebbe portati? Il calcio, voglio dire, non può ogni volta, come dire, soltanto a parole predicare estremo rigore nei confronti di tutto e di tutti, proporsi di cambiare, e occorre che ci sia una costante coerenza tra i buoni propositi e i fatti. Questa costante coerenza evidentemente non c'è. Le devo fare un'ultima domanda, perché ho 30 secondi, sì. Nel ringraziarla già, ringrazio anche Carlo Genta. L'amnistia nel calcio, sai che viene proposta spesso da molti, anche parlamentari, tifosi, eccetera. Ci vorrebbe una bella amnistia per chiudere queste vicende? È una delle devastanti proposte che ciclicamente vengono avanzate. Cancellare con un colpo di spugna tutte le colpe che sono emerse e procedere alla riconciliazione. È accaduto, lo ricordo, dopo il calcio scommesse del 1980, fu un'operazione che permise, come dire, all'Italia di portare alcuni calciatori ai mondiali di Spagna dell'82, fu una delle parole d'ordine tra il giugno e il luglio del 2006 alla vigilia dei campionati del mondo in Germania, ritorna adesso, è una parola d'ordine che in realtà ogni volta si propone di non fare i conti fino in fondo con i mali del calcio, di non affrontarli e volerli sì. risolvere, ma appunto di cancellarli con un colpo, con di, un spugna. Colpo di spugna. Io no, mi devo fermare qui, altrimenti sforo, ma la ringrazio molto. Giuseppe Narducci, ricordo il suo libro Calciopoli, la vera storia, se volete comprarlo, è l'ex PM che ha seguito l'inchiesta. Grazie a Carlo Genta, ci troviamo domattina.